guardarsi un po'. E senza un piano preciso e disperso, continua a navigare col vento avverso, cercando una ragione per vivere ancora senza un perché. Ma sente che la vita ragione non ha, se basta due lustrini, una giacca, un foulard, perché sarà preziosa soltanto per chi un cuore non ha. E allora via questi strani vestiti che lasciano nel cuore pesanti detriti, proviamo un po' a volare. Into the Thank you.